140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Arena di Verona. Incontrando Francesco De Gregori dopo il grande concerto Rimmel 2015. Non una celebrazione dei 40 anni del disco, ma una festa di compleanno. Sì, non l'avrei fatto. Se doveva essere una celebrazione, non mi interessava, non c'è niente da celebrare, è musica, la musica non si celebra, si esegue, si fa, si canta, è quello mi interessava, e questi colleghi sapevano esattamente che questo doveva succedere, l'hanno sposata questa cosa dall'inizio, proprio per la gioia di suonare, insomma, e quindi niente. Sì, poi Rimmel è importante, guai a dire che io non amo quel disco, però è un compleanno, si festeggia un compleanno, tutto qua. Sul manifesto ci sono tutti i nomi dei tuoi amici e il tuo in mezzo agli altri, in rosso ma in mezzo agli altri, perché è la festa del disco, non tua? Beh, adesso che avete sentito il concerto potete capire perché il mio nome è in mezzo agli altri, perché non è un concerto dove De Gregori torreggia e poi arrivano gli altri e tutti. No, è stato una band di gente. Ora il mio nome poi l'ho messo in rosso perché in qualche modo Rimmel l'ho scritta io, però sul manifesto, dove di solito si mette il nome dell'artista, in alto c'è scritto Rimmel 2015. Il protagonista è stato indubbiamente Rimmel, se gli altri stavamo tutti su un piano di parità. Il mio nome in rosso, diciamo, l'abbiamo messo per far capire chi è che aveva scritto la canzone. E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. Confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Abbiamo fatto tutti il conto, abbiamo visto che tu avevi 24-25 anni, ci siamo tutti sentiti un po' in colpa perché neanche col tempo siamo mai riusciti a fare niente di paragonabile. No, ognuno fa tutto quello che può fare nel suo lavoro, a me è venuta bene quella cosa, ma sono tutti, non è vero, ci sono un sacco di 25 anni oggi che magari lavorano in un call center e sono più bravi di me. No. Però quando noi rileggiamo i diari o vediamo le vecchie foto, ci guardiamo e diciamo: Dio, ma che brutto quel vestito, Dio. E a te non capita mai, ricantando magari quelle parole, dire: ma forse... No, non con le canzoni che ho cantato stasera, forse può capitare con qualche canzone, ma sono poche. No, ma perché vedi, dietro poi le canzoni che ho fatto, ci sta la musica, e quindi non è, la gente parla sempre delle parole, ma è la musica che porta divertimento e anche contemporaneità alle cose. La musica è il veicolo su cui viaggiano le parole, ma non c'è niente di datato, no? Nelle cose che ho cantato stasera, quando cantavo il signor Hood, per esempio, quando dico qualcuno sperava che fosse morto lì, allora lì c'è un po' di autobiografia, no? In quella cosa, perché un po' ce l'avevano con me a quei tempi. E allora, però non era vero, non sono morto lì. In quel momento ho capito che quelle parole erano attuali. A un certo punto proponi un vecchio filmato di quegli anni, ma tu cosa provi quando vedi quel ragazzo? Tenerezza, simpatia, nostalgia? No, ero io, basta, ero io, è così. Sono passati 40 anni, ero diverso di faccia, ma no, non, veramente la nostalgia non è qualcosa che è lontanissimo da me. È così, è chiaro, si invecchia, si cambia, però non è un altro, sono io, ero io allora, sono io adesso, non è cambiato niente. Guarda che sono io e non guarda che non sono io. Guarda che non sono io, vabbè, parla di un'altra cosa, il rapporto, l'identità, insomma, sai, si mischiano tante cose, no? Però no, in quel filmato non l'ho fatto per rievocare chissà quale età felice. Semplicemente dire: stiamo parlando di qualcosa di 40 anni fa stasera, stiamo suonando le canzoni di 40 anni fa, ecco, io ero così 40 anni fa. Come ho detto prima, alla fine le stesse cose che dicevo allora le dico adesso, e quindi non c'è stato. Sono rimasto bloccato allora. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto. In vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io senza capire ho detto sì. Noi ci stiamo parlando appena finito il concerto e io avrei già voglia di rivederlo. Succederà qualcosa? Perché poi il pubblico e quelli che se lo sono perso se lo chiedono, lo si potrà rivedere, lo si potrà, ci hai pensato? Ma no, non credo, mi piace l'unicità di questa cosa, no? Una festa di compleanno non chiami le troupe televisive, è una festa di compleanno, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, va bene così. Faremo qualche cosa più in là, io spero che si possa anche avere, ti dico, c'era un bel pezzo di musica italiana stasera. Ed è un peccato che magari non possa essere diffusa, che una cosa del genere, ma non con Rimmel al centro, parlo semplicemente delle persone che hanno suonato qui stasera, ma che non si possa pensare a qualche cosa che venga diffuso anche in televisione e che rappresenti la musica italiana come stasera è stata rappresentata qua. Però non è un progetto, è semplicemente un'idea vaga, però stasera doveva essere questo, stasera... Noi abbiamo lavorato per queste 12.000 persone che stavano qui stasera invitate alla festa. Quindi tu hai fatto la festa, ma il regalo ce l'abbiamo avuto noi, grazie. Anch'io, dai, non ti credere. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Francesco De Gregori. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.